CLEROO Sclero 2016. Questa fredda notte d'autunno avrei bisogno di un po' di calore. Non mi resta che contare le ore che mi separano dal sole. Guardo le luci delle macchine, corrono verso cosa non so. Il freddo gelo alle mie lacrime che cadono nel po'. Qui nessuno sembra accorgersi di quello che è attorno. Tutto viene automatico, andate e ritorno. Io vi osservo fermi al semaforo rosso, stressati ed incazzati a più non posso. Ma io non ho più un lavoro, ho venduto tutto l'oro, ho perso anche il decoro. Io non ho più un tesoro, non mi vedi quanto imploro. Ogni giorno peggioro, non canto più nel coro, non fumo più Marlboro, la città esploro, i divieti ignoro, il vostro stile di vita non approvo, per questo non miglioro, non voglio finire come loro. Ma io non ho più una famiglia, è quasi vuota la bottiglia, ogni notte un parapiglia con uno che mi somiglia, malato senza pastiglia, da mangiare un po' di poltiglia, nessuna meraviglia, nessuno batte ciglia, non ho soldi per pagare, non ho auto per scappare, non ho un curriculum da presentare, niente referenze da mostrare, nessuno che mi possa raccomandare, nessuno che mi possa aiutare. Ma ciò che mi spaventa è la gente spenta, l'indifferenza aumenta, l'odio aumenta. Quando la notte è scura, quando male non c'è cura, tengo disinvoltura, e quando viene buio anche ho paura. Bevo perché sento arsura, è instabile la mia andatura. Io non ho un'armatura, quando sono solo anche ho paura, anche ho paura, anche ho paura, anche ho paura, anche ho paura, anche ho paura, anche ho paura, anche ho paura, anche ho paura, anche ho paura. Finalmente arrivano le prime luci del mattino, una grigia e triste giornata come solo sa regalare Torino. Vedo che state partendo verso la vostra destinazione, già stressati i clacson suonano in continuazione. Questa pioggia pungente mi continua a tormentare, la voglia di piangere non vuole passare. Se mi vedete da lontano mi fate segno di no, ma io non ho mai chiesto niente e mai lo farò. Non ho più un riparo, anche un caffè costa caro, in bocca un gusto un po' amaro, sogno un po' di denaro, il futuro non è chiaro, di notte sento un faro, mi alzo e mi preparo, destino un po' avaro, tu scappi e fai l'ignaro, e nuove regole imparo, tremo ad ogni sparo, anche un sorriso è raro, non ho nulla e lo dichiaro. Io non sono un baro, ogni cosa può accadere, tanto non mi puoi vedere, mi sento cadere, ho bisogno di bere, non ho un cameriere, scappo se vedo un carabiniere, imploro le cassiere perché la mia carta di credito non può valere. Il mio destino è segnato su una panchina addormentato, mai commesso un reato, eppure marginato, sempre accusato, sempre abbandonato, maltrattato, sempre ignorato. Ma ciò che mi spaventa è la gente spenta, l'indifferenza aumenta, l'odio fomenta, la mia vita è molto dura, peggio di una clausura, come vivere in dittatura, e quando manca l'aria che ho paura, all'aperto ma fra quattro mura, a volte mi sento spazzatura. Non mi sembra di vivere un'avventura, e quando manca il fiato anch'io ho paura, anch'io ho paura, anch'io ho paura, anch'io ho paura, anch'io ho paura, anch'io ho paura, anch'io ho paura, anch'io ho paura, anch'io ho paura, anch'io ho paura. Se sono ancora qui è solo perché non ho avuto coraggio di farla finita, un tempo era simile alla vostra anche la mia vita, ora sono in strada e tutto è cambiato, ora non ho nessuno, ogni amico se n'è andato, è mia la colpa se sono in questa situazione. C'è crisi e disoccupazione, ma son felice di non aver la preoccupazione di dover aumentare la produzione. Io non ho più fretta in questa città maledetta, nessuno mi aspetta, nessuno mi rispetta, qualche colletta, nessuna bolletta, ma non voglio vendetta. Io non ho più riunioni, non ho commissioni, non ho fatto la bocconi, sempre gli stessi calzoni, cammino ciondoloni, ci chiamano straccioni, ci chiamano barboni. Non ho più nulla da salvare, nulla da dimostrare, nulla da vantare, nulla da insegnare. Mi faccio dittare, mi faccio accusare, mi faccio evitare, mi faccio odiare. Non mi faccio controllare, non mi faccio ingabbiare, nella statistica non mi potete mai conteggiare. Mi manca però qualcuno da carezzare. Ma ciò che mi spaventa e la gente violenta non è mai contenta, uccide come la mala del Brenta. Vivo in una fognatura, quella che addosso non è una brozzatura, in gola una strozzatura, e quando mi sono anch'io paura, quando la notte è scura, si abbassa la temperatura, e quando sto male anch'io paura, anch'io paura, anch'io paura, anch'io paura, anch'io paura, anch'io paura, anch'io paura, anch'io paura, anch'io paura. L'uomo sarebbe stato visto vivo l'ultima volta questa mattina da un amico, anche lui senza tetto, che gli avrebbe chiesto se desiderava un pasto caldo. Pare che l'uomo non si nutrisse da diversi giorni. Probabilmente il digiuno ed il freddo di questi giorni hanno determinato il decesso. Lo stesso amico lo ha trovato privo di sensi qualche ora dopo ed ha immediatamente allertato i soccorsi. Il 118 giunto sul posto ha tentato invano di rianimarlo. Sul posto sono giunti anche polizia e vigili urbani.